Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Torniamo ancora a occuparci di prevenzione antisismica, in particolare di un progetto, il progetto InSisme, che mira a mettere a punto dei nuovi componenti edilizi in laterizio, quindi una tecnica diciamo tradizionale, in grado di resistere a scosse sismiche anche molto rilevanti. Alla ricerca, che rientra nel 7° programma quadro dell'Unione Europea, hanno partecipato 16 partner scientifici e industriali di 7 paesi diversi, e per l'Italia in particolare hanno partecipato le Università di Pavia e di Padova, in collaborazione con l'Associazione dei produttori dei laterizi. E proprio dal lavoro di questo gruppo è venuto uno dei risultati più interessanti del progetto, un nuovo sistema per realizzare tamponature antisismiche. Buonasera Guido Magenes. Buonasera. Professore di tecnica delle costruzioni dell'Università di Pavia, e tra l'altro a Pavia si trova l'EU Center, che ospita una delle più grandi, non a caso direi, piattaforme per la simulazione di terremoti e prove antisismiche, forse la più grande d'Europa. Magenes, le faccio subito una domanda. Voi avete lavorato non sulla struttura portante dell'edificio, ma sulle cosiddette tamponature, cioè appunto le murature non portanti. Perché? Ma dunque, per due motivi fondamentali. La prima è che quando questi elementi, che comunemente diciamo non vengono considerati come elementi portanti, ma semplicemente come elementi di chiusura, cosiddetti elementi non strutturali. Le tamponature sono i muri perimetrali, no? Uno fa questa struttura in cemento armato e poi... tipicamente vengono intese come muri perimetrali, esatto. Poi ci sono anche i divisori interni che in qualche modo possono realizzati con tecniche analoghe, e diciamo questi elementi che tradizionalmente vengono considerati come non strutturali, tuttavia si possono danneggiare significativamente durante un terremoto, quindi c'è un primo problema di costi dovuti alla... danneggiamento di questi elementi e al fatto che a causa del danno l'uso e l'utilizzo del edificio viene interrotto. E poi ci sono dei problemi di sicurezza, di salvaguardia della vita umana fondamentalmente, perché quando questi elementi si danneggiano molto possono crollare all'interno o peggio ancora all'esterno, no? Sì. E quindi possono costituire un pericolo, un pericolo per la vita umana. E mentre diciamo la parte portante viene sempre studiata e studiata abbondantemente, a queste componenti si è sempre dedicata abbastanza poca attenzione. E voi avete messo a punto un sistema che rende antisismici questi componenti. Ci spiega? Sì, dunque abbiamo cercato di innanzitutto rendere migliore quello che è il comportamento della tamponatura, quindi limitare il danno, limitare soprattutto il rischio di potenziale collasso, e anche abbiamo cercato di ridurre quella che può essere la cosiddetta interazione di tipo negativo fra la tamponatura e il telaio. A volte queste tamponature costruite in modo tradizionale possono creare delle sollecitazioni sulla struttura portante. Sì, e per cui nel passato si sono registrati anche dei collassi dovuti alle tamponature, favoriti da questa interazione negativa. Quindi questo era il nostro obiettivo, e abbiamo cercato di praticamente introdurre degli elementi, chiamiamo sacrificali, cioè dei giunti praticamente, sì, deformabili, oppure dei giunti di scorrimento che stanno ai vertici, ai lati, no? Sul contorno della tamponatura in generale. E poi ci sono alcuni giunti di scorrimento lungo l'altezza della tamponatura, che consentono quindi una possibile deformazione della tamponatura senza però lesionare la muratura in laterizio. In questo modo, per terremoti di media intensità, il danno è assolutamente minimo. Si tratta quindi di fare delle riparazioni, giusto l'intonaco, bisogna stuccare le crepe, diciamo così. Esattamente, mentre invece nel caso di terremoti di forte intensità questi scorrimenti e queste deformazioni giunti diventano più importanti, però si preserva la tamponatura dal collasso, e soprattutto anche si abbattono sensibilmente quelle che possono essere le forze che si scambiano la tamponatura al telaio, preservando quindi il telaio anche da fenomeni negativi. Certo. Senta, è una tecnica questa che avete messo a punto facile da mettere in opera? Perché insomma, in caso contrario sappiamo come vanno a finire queste storie. Dunque, è una tecnica che può essere messa in opera innanzitutto con strumenti e con manodopera tradizionale, cioè semplicemente bisogna della, dell'addestramento adeguato per la manodopera, ma si possono utilizzare attrezzature del tutto tradizionali. Ci sono questi elementi che vengono chiaramente, devono essere prefabbricati. Certo, questi giunti. Ma la difficoltà costruttiva è del tutto paragonabile a quelle che sono le tecniche tradizionali di costruzione dei nostri edifici. Questo è anche un risultato abbastanza importante. Eh sì, degli edifici in laterizio, cioè si riesce a sposare con una tradizione, chiamiamo comunque, di costruzione di edifici in laterizio, perché puoi immaginare soluzioni molto complicate spesso finiscono per non riuscire a prendere piede. Va bene, grazie Guido Magenes. Grazie a lei, arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.